Francesco, è un piacere, ci ritroviamo 10 anni mio. Dopo. Cambiate molte cose in un periodo storico molto delicato. Io partirei, se ti piace l'idea, dal tuo rapporto con la scrittura. Mm-hmm. Le canzoni, ma anche i libri. Questo è il tuo terzo libro, se non sbaglio. Sì. Ecco, com'è nato? Tu scrivevi già prima di comporre canzoni, i libri sono arrivati dopo. Come ha funzionato il tuo rapporto con la scrittura? Allora, scrivevo prima delle canzoni, per quello che ricordo, soltanto quelle cose che si scrivono ed è meglio dimenticare di aver scritto. Sai, le poesie giovanili, queste cose qua, che è giusto che vengano dimenticate. No, non scrivevo, ho cominciato a scrivere canzoni. Però sentivo che le canzoni erano una via e che potevano essercene tante altre. Chissà quando poi queste altre strade si sarebbero aperte, ma io sapevo di essere uno disposto, propenso e portato anche a percorrere strade anche abbastanza inesplorate. Io per tendenza sono uno che si mette alla prova, si dà le sfide, per cui ho cominciato a scrivere canzoni, però quello che ricordo già dalle elementari, se mi si chiedeva che cosa volessi fare da grande, io rispondevo il giornalista, capito? Per cui avevo dei progetti di scrittura, ma già da piccolo, megalomania infantile. Ho cominciato a scrivere le canzoni, poi a un certo punto ho cominciato a sentire l'esigenza come sfida più che altro, quella di scrivere in prosa. Sai, le canzoni sono una cosa che è sempre stata molto istintiva per me, ho cominciato a farle, ho formato prima delle band, dai tempi del liceo, poi fino ad arrivare a Baustelle, e scrivevo e ho sempre scritto tante canzoni, con grande facilità, la maggior parte da cestinare, però scrivo canzoni e mi dà piacere scrivere canzoni, volevo arrivare a questo. A un certo punto ho provato, come dicevo prima, a mettermi come sfida di provare a praticare l'inesplorato per me allora, 10 anni fa, l'abbiamo detto prima, territorio della prosa. Anche perché il legame tra il testo di una canzone e la poesia è molto stretto. Esatto, e hanno delle, insomma, forti similitudini come proprio regole, codici di scrittura. La prosa era una cosa che sentivo, mi attraeva, era la sfida, dai Francesco, fallo. E a un certo punto anche un editore mi ha detto fallo, per cui mi sono buttato. E però è effettivamente una cosa, è una banalità, non lo scopro io, lo sapete già, è proprio diverso, le canzoni sono simili alla poesia, il che non vuol dire che i testi delle canzoni siano poesie, anzi io sono contrario a questa cosa, non andrebbero manco letti senza la musica, però come scrittura è una forma sintetica che procede un po' con le stesse forme retoriche, le rime, quando ci sono le assonanze, bla bla bla. Invece la prosa è questo uliveto, sterminato, inesplorato, che non finisce mai, e tu ci sei solo in mezzo e non sai quale pianta guardare. Questo è lo stato in cui ci si sente, in cui mi sento io ogni volta che scrivo in prosa. Questo è stato per il primo romanzo, ma lo è tuttora, questo volevo dirvi. Per cui per me la scrittura di romanzi continua ad avere un avventuroso fascino, una cosa che sento come voler fare, un fascino esotico, misterioso, come voler andare verso una terra inesplorata, anche un territorio anche pericoloso. E qua dico subito una cosa brutta, come tutti dicono, però ti fa star bene. No, le canzoni forse perché sono forme anche più immediate, serve meno tempo per scrivere una canzone, arrivo al punto di soddisfazione in pochissimo tempo. Mentre scrivo un romanzo o qualcosa in prosa, è come se avessi a che fare con qualcosa che non è godimento immediato. Il godimento arriva dopo, alla fine del uliveto, del deserto, della strada. Dopo sì, altrimenti forse non si farebbe. Però la pratica della scrittura per me è una cosa anche un po' dolorosa. Credo che abbia a che vedere con anche la solitudine, appunto, dell'avere una libertà sconfinata di entrare dentro i propri abissi, no? Per cui fa paura. Ecco, in questo senso, in che rapporto sono il Dimitri del libro con te, autore, cioè la finzione e la realtà? Questo libro ha una genesi bizzarra, perché nasce da un'idea che io avevo avuto un po' prima che scoppiasse tutta questa confusione al mondo. ovvero mi ricordo di essere stato dentro un supermercato, come spesso succede, i supermercati fanno venire buone idee, per cui vagando in cerca di cose, a un certo punto vagando per il corridoio mi ricordo di aver avuto questa idea che poi non pensavo che potesse essere buona per un romanzo, però ricordo di aver avuto una domanda, ma in quante case un essere umano medio dell'Occidente mette piede nella propria vita? E abbastanza automaticamente io ho cominciato a pensare al mio caso, no? Al personale, quindi ho cominciato ad arrivare un po' di flash, ricordi di case in cui ho abitato, quella in cui sono cresciuto, le case in cui sono stato da studente, altre flash continui, ed erano tanti, no? Per cui la risposta è stata, sono tante le case in cui un uomo cosiddetto occidentale mette piede. Poi mi sono reso conto che in realtà non mi arrivavano i flash di case in cui io avevo necessariamente abitato, ma erano immagini di posti in cui avevo stato per pochi minuti, ma che erano comunque case, architetture, spazi chiusi, coperti, delimitati, e che in qualche modo mi avevano lasciato un ricordo, se ero là al supermercato con la visione di questa cosa. Per cui erano case che io avevo non abitato ma vissuto, per cui sto là con questa suggestione. Poi un po' dopo mi è venuta l'idea di scrivere una storia di questo uomo che è bloccato, poi l'ho detto tante volte, non ci crederà nessuno, era pre-pandemica questa cosa, ovvero era bloccato in casa da un'oscura minaccia. Io volevo scrivere la storia di uno che era chiuso in casa perché fuori, no, io vi giuro, non pensavo al virus, io pensavo a, che ne so, una roba, una metafisica, un fallout atomico, e comunque doveva rimanere oscura, non doveva essere esplicitata la minaccia. Quindi un personaggio chiuso in casa che fa lo schedario delle case in cui ha vissuto e non abitato. Poi è successo che è scoppiato quello che è scoppiato, e gli editori, Rizzoli, Lizard, una persona che conosco, che lavora, in cui avevo parlato della cosa, e ho detto, sarebbe bello, facciamone un libro magari illustrato. Sono stati loro ad esempio a mettermi in contatto con Paolo Bacivieri, perché è un libro illustrato alla fine. E quindi ho cominciato a scriverlo mentre fuori succedeva. Per cui tutti i miei tentativi di non essere autobiografico e di essere anche di fiction, perché l'idea originale doveva essere una sorta di science fiction, però mi sono trovato poi scavalcato dalla realtà, e quindi inevitabilmente mi sembrava ridicolo che la minaccia rimanesse oscura, mi sembrava più corretto, onesto, che magari non avesse il mio nome, che non tutto fosse reale, ma comunque il momento terribile in cui mi sono trovato a scriverlo non lasciava spazio a troppi svolazzi, no? Per cui la minaccia che Dimitri vive è esterna, è un virus. Dimitri non è me, ma è comunque... Ho deciso che molta della psicologia del personaggio corrispondesse con la mia, che mi sono trovato in questa situazione terribile, spero che non mi succeda più nella vita, di scrivere, chiuso dentro casa perché fuori c'è il coronavirus, la storia di uno che è chiuso in casa perché fuori c'è un virus. Chiuso in casa ed elencare le case in cui ha vissuto la vita. Insomma, ho vissuto un episodio ai confini della realtà, ma tutti noi l'abbiamo fatto. Io mi ci sono trovato col libro, insomma, con le procedure di scrittura. Sullo stile, già da partire dall'inizio, c'è un'attitudine ad essere osservatore, per cui un'attenzione ai dettagli anche architettonici delle case, e un'ironia. Mm-hmm. E questa attitudine all'osservazione e l'ironia danno l'idea di una sorta di distacco per certi versi. È vero, mi ricollego a quello di cui ti dicevo prima. Sulla carta doveva essere, poteva essere anche più ironico e anche più distaccato. Poi certe cose sono state un po' smussate, forse è stato giusto così, appunto dalla realtà che prendeva il sopravvento e che in qualche modo entrava dentro il libro. Però sì, in generale tendo a ricercare il distacco, mi interessa molto pormi sempre in un punto distaccato rispetto alle cose che descrivo, che racconto. Forse il mio modo sicuro per cercare di rendere più interessante e fugare anche un po' la retorica, anche nelle canzoni tendo a farlo. Forse con le canzoni del mio disco solista ultimo vado per la prima volta in una direzione di maggiore coinvolgimento emotivo, ma è una novità. Io tendenzialmente sono un pauroso che si crea delle sfide, ma che per comodità e anche perché sono interessato, non è solo per paura, in realtà è anche perché secondo me certe formule stilistiche, tipo l'usare l'ironia o il distacco, non lo so, portano a risultati spesso interessanti. Lo dico, sì, anche dal lettore, mi piacciono quelli che scrivono così, piuttosto che i passionali, insomma. È più difficile scrivere bene passionalmente, anche, ve lo confesso, sono tutti trucchi questi qua, l'ironia e il distacco. No, non è vero, però ecco, anche dal lettore preferisco i freddi, i cool. Hai trovato, secondo me, una sintesi perfetta insieme a un omaggio a Gaber. Ah, sì. Perché nella citazione che fai di Gaber, lui parla delle case come nascondigli e della strada che invece fa conoscere quello che siamo. E questo, secondo me, è una, appunto, perfetta sintesi di quello, sì, che poi è il tuo libro. Esatto, mi piace tanto Gaber, e credo che tutte le canzoni che ha scritto con Lucorini siano delle cose che riascoltate oggi, anzi vi invito, fatelo. Se fate un lungo viaggio in macchina e ascoltate, non so, uno qualsiasi, c'è una densità e un livello di poesia, lucidità, sociologia, filosofia, qualsiasi cosa compresso in una canzone italiana. Da fan non potevo non fare questa citazione di una delle canzoni di Gaber che mi è sempre piaciuta tanto e che mi ha sempre molto colpito. È una canzone che si chiama C'è solo la strada, in cui racconta tutto l'iter sentimentale di un individuo che conosce una donna e ci si innamora, si sta bene, si decide di andare a vivere insieme e si apre la porta di una casa, si varca quella soglia e poi tutto lentamente comincia a cristallizzarsi, tutto lentamente comincia ad andare a scatafascio, per cui ci si odia, ci si insulta e alla fine ci si separa. E poi nella canzone lui ricomincia con un altro nome di donna, corteggiamento, e si rientra, si ribarca quella maledetta soglia, ci si chiude la porta alle spalle e comincia una routine e tutto va allo scatafascio. Nei ritornelli lui dice queste parole meravigliose, ovvero: perché il giudizio universale non passa per le case in cui noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Questo non significa che le case vanno abolite, sono il male, però è anche vero che poi l'uomo, e lo dice anche Dante in quel famoso punto della Divina Commedia, se vuole avere un senso, forse è fatto non a vivere come bruto, ma appunto a seguire virtute e conoscenza, per cui l'unico senso è l'esplorazione, la conoscenza. E spesso nell'Occidente moderno le case sono diventate una sorta di luogo comodo, sicuro, un teatro in cui rinchiudersi in questa illusione di mito del benessere, rinunciando poi all'esplorazione, che è una tendenza vitale che rende vivi gli uomini e appunto li tiene in vita e li tiene in tensione verso la vita, non verso la morte, dove naturalmente si va. Per cui mi sembrano le parole migliori per raccontare la storia di uno che è costretto a vivere chiuso dentro una casa, per cui la prima volta la casa appare come una prigione. Ed ha un ulteriore valore il fatto che la strada nel tuo percorso, nella tua vita, abbia un ruolo così determinante, sì, nel senso tra libri e dischi sei in viaggio continuo. Eh sì, ma sono contento, ripeto, che sia così, e è un modo, anzi il mio lavoro, anche quello di musicista e la tournée, certo è un lavoro, ma è anche un modo meraviglioso, un privilegio meraviglioso per tenersi in allenamento verso la scoperta e l'esplorazione. Le tournée sono dei viaggi che poi possono essere anche stancanti, a volte sono delle forme di conoscenza anche parziali, perché no, succede che si gira, vai in una città e dici: ah, ho visto soltanto il posto del concerto e la strada del teatro, del club, ho visto due negozi, non so. È ovvio che è parziale, però è una grande occasione di incontro e conoscenza. Assolutamente, per cui meno male, sono privilegiato. Dal punto di vista stilistico, l'avevi accennato prima, c'è un contributo di disegni. Come l'avevi concepito il libro? Proprio così dall'inizio? No, non ci pensavo, ma poi quando Pasquale Laforgia di Rizzoli Lizard, il mio amico di cui ti parlavo prima, mi ha detto devi assolutamente questa storia farla con Paolo Bacigliari. Io Paolo non lo conoscevo personalmente, ma sapevo un po' da praticante di fumetti, di illustrazioni, lo conoscevo di fama, insomma. E ho subito pensato che potesse essere una buona idea. Bacigliari è bravissimo nel rendere vive cose che spesso sono appunto morte o che portano alla morte, come ad esempio le case, no? Le architetture. È bravissimo a disegnare le città. A me piacciono gli illustratori dettagliati, mi piacciono i realisti, per cui il meticoloso tratto di riproduzione della realtà, ma allo stesso tempo in cui poi riesce a leggere un qualcosa dell'autore. Ecco. Bellissimo questa cosa. Il fustino del Dash. Esatto. Quando mi ha mandato la tavola col fustino del Dash, adesso vi spiego poi brevemente, mi sono messo a piangere, perché nel libro una delle case che Dimitri racconta è un capitolo, è una casa che si chiama La casa nella casa, ed è la casa mentale che Dimitri bambino disegna all'interno della casa in cui vive, quella dei genitori. Il perimetro della casa nella casa coincide con le pareti di questa stanza inutilizzata all'interno della casa dei genitori, che l'hanno costruita questa casa, e quando l'hanno costruita è rimasta una stanza che da destinare in futuro a un nuovo bambino, diventerà una nuova cameretta, per adesso la lasciamo così vuota. E quindi Dimitri se la accaparra, ed è questa stanza dove non c'è niente, dove non c'è nessun mobile se non l'accumulo di giochi, giocattoli di Dimitri e anche di Francesco. È andata così anche nella mia vita. Io avevo come contenitori dei soldatini, utilizzavo i fustini del Dash, del Dixan. Erano dei cilindri di cartone, ottimi come contenitori, sì, di soldatini, rovesciati. Ma sa che li abbiamo usati un po' tutti. Esatto. E Paolo ha disegnato il fustino del Dash, rendendolo vivo e commovente dal mio punto di vista. Il concetto alla base del libro, secondo me, con anche la situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo della pandemia, ha avuto un'amplificazione e ha anche estremizzato degli aspetti, nel senso, generalmente la casa è concepita, parlo della nostra esperienza in Occidente, come privato, come luogo degli affetti, come luogo di sicurezza. Mentre in quello che leggiamo nel libro è anche un luogo di prigionia, di sofferenza e di morte anche, di solitudine. Vi parlo sia del libro ma anche della mia esperienza, perché poi, come si diceva prima, l'esperienza di Dimitri ha coinciso un po' anche con quella mia personale nella pandemia. Secondo me poi lo sapremo meglio fra qualche anno, come dicono tutti, no? Ancora non capiamo la portata di questa cosa, è difficile da studiare, da analizzare, però secondo me possiamo dire con abbastanza certezza che questa cosa ha impedito il fuori e quindi ci ha imprigionati e costretti a vivere le case forzatamente. E i metri quadrati delle case sono limitati, insomma, no? Finiscono a un certo punto. Per cui io mi sono trovato con tutto questo maledetto tempo a disposizione a girare dentro i metri quadrati limitati di una casa piccola, comunque piccola o grande che sia, anche la Reggia di Versailles a un certo punto la esplori tutta e non c'è più niente da esplorare. Quindi secondo me la cosa terrorizzante della pandemia e dei lockdown è che ha costretto tanta gente, me compreso, a, finiti i metri quadrati, cominciare esplorazioni a cui eravamo molto disabituati, quel guardarsi dentro. Io a un certo punto non riuscivo, ho bloccato la scrittura del libro, non scrivo canzoni, avevo bisogno di guardarmi dentro. E questo guardarsi dentro, da occidentali forse non ci eravamo più tanto abituati. Può fare paura, può essere terribile per degli uomini che sono come noi, come tutti noi, che siamo abituati alla socialità. Noi guardiamo sempre al fuori, noi rimandiamo a domani il confronto con i propri demoni, mostri, ma preferiamo fare un aperitivo con un amico, certo, no? Certo. E quindi ci ha costretto a pensare, a riflettere, a guardarci dentro. A me ha fatto questo effetto e può essere sconvolgente fermarsi a pensare. Sì, no, ha fatto esplodere anche tante crisi latenti, nel senso, esatto. Anche se l'esplorazione di se stessi da sola, ecco, può essere rischiosa, e ci ha fatto però capire questa situazione l'importanza della relazione al di fuori del, certo, nucleo domestico, dei propri affetti più stretti. Assolutamente, sono d'accordo. d'accordissimo con te, è che le mura di casa non sono soltanto, non dovrebbero essere soltanto un recinto per chiudersi e stare a guardare, non so, la TV o giocare alla PlayStation. Le case sono dei teatri, no? Alla fine sono nate come protezione, una forma di sopravvivenza dalle intemperie, poi pian piano è anche giusto che abbiano cambiato, ci siano arricchite di valori, ci sono innestate sopra la sopravvivenza delle altre funzioni, però bisogna essere bravi a non venirne risucchiati dalle case o sommersi, schiacciati da queste funzioni, no? O prenderne, estremizzarne soltanto alcune. Mi è piaciuto anche questo atteggiamento cui accennavi prima, che ne fa una sorta di diario emozionale, perché non ci sono solo le case, ma anche quei luoghi o le stesse case in cui però hai vissuto anche solo pochi attimi, che però hanno lasciato un segno, certo. Hanno significato qualcosa per te. E anche la ragione del titolo, il titolo è un titolo ironico, perché sono maledette le case, perché sono spesso maledette, perché comunque contengono gli uomini lasciano dei segni dentro le case questi segni li rimandano spesso indietro, ed è il motivo per cui le case poi sono il luogo dei fantasmi, no? Ad esempio, i fantasmi non sono soltanto quelli della letteratura gotica, sono il segno che io ho lasciato la casa in cui abito attualmente, che se deciderò di lasciare o di vendere o di affittare a qualcun altro, quel qualcun altro è molto probabile che trovi, per quanto io sia bravo a cancellare ogni traccia di me, è probabile che troverà, non so, dei dettagli, qualcosa che io ho lasciato e non ho, qualche indizio che non ho cancellato, e quindi quello, in quel senso i fantasmi, no? Mi è capitato, questi ultimi mesi ero passati insieme alla mia compagna a cercare una casa a Milano, questo rito del visitare gli appartamenti con un agente immobiliare ti fa vedere, a volte sono vuoti, a volte ci sono gli inquilini, e io mi succede sempre di farmi il film, no? Non penso soltanto all'osservarla in funzione al fatto che quella potrebbe essere la nostra futura casa, no, poi c'è qualcosa, qualche piccola deviazione, una fotografia su un mobile, un quadro, c'è sempre qualcosa su cui mi soffermo e creo delle narrazioni, delle storie. Quindi in questo senso le case, ci sono sempre i fantasmi, sempre il passato di qualcuno che entra in collisione col presente tuo o mio che vado a visitare l'appartamento. Racconto questa cosa che mi ha molto colpito di un mio amico di Milano, a proposito di fantasmi, di case maledette, che mi ha raccontato questa cosa, che ha detto: io ho vissuto per anni in questa casa in zona Paolo Sarpi a Milano, e in questa casa piccola, anche un po' disastrata, con la mia compagna, il gatto, poi abbiamo fatto un figlio, siamo stati stretti, poi insomma abbiamo trovata una più grande perché ne avevamo bisogno di una più grande. Il giorno in cui io sono andato a chiudere casa, prima di tirarmi la porta indietro, l'ultimo sguardo, ho visto come una pallina galleggiante, un po' evanescente, bianca. E lui mi ha detto: io non credo ai fantasmi, non credo a Dio, non credo a niente, sono ateo convinto, però io ho visto questa pallina, era una palletta, come io me lo sono immaginato, una specie di Casper, fantasmino. E mi sono chiuso la porta dietro, o comunque ho tirato dritto, tranquillo alla fine, perché sapevo che quella pallina era buona. Mi ha molto colpito questa storia, questo per dire che le case appunto parlano, sono piene inevitabilmente di tracce di noi, a volte ci tornano indietro, insomma, no? Brutte o belle che siano. Ecco, proprio a questo proposito, dato che di case ne hai cambiate tante, ne hai vissute tante, quella che abiti adesso l'hai fatta a tua immagine e somiglianza? Ci sono delle tue tracce? Come la vivi la casa? Ci sono assolutamente delle mie tracce, per quello facevo l'esempio del chi verrà, sì. Poi ci sono delle mie tracce e la vivo. Questa cosa è strana perché io, nonostante la canzone di Gabber io ce l'abbia ben chiara questa regola, io sono poi anche uno che ci sta anche volentieri in casa. Per cui sì, per cui ho cercato prima della pandemia di viverla anche da pigro, se vuoi, di renderla simile a me, al mio gusto. Per cui sì, ci sono delle tracce, c'è anche un calcio in una porta che ho dato una volta. No, ti dico questo perché, per esempio, la mia casa la curai molto, però poi non è stata l'ultima e quindi ogni volta si affievolisce un po'. La tendenza alla personalizzazione, sì, dice, a un certo punto basta. Sì, al certo punto scatta un po' quello. No, io è una cosa che mi appassiona, devo dire. Infatti, però capisco, ho capito cosa intendi dire. Però bisogna tenere vivo il fuoco della personalizzazione, anche se è ovvio, lo sappiamo, non vale la pena, è tutta roba che si disintegra, tornerà a nulla, il caos primordiale. Però è bello, secondo me, anche cercare un po' ogni volta di riprovarci, lasciare un segno. Grazie Francesco. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo non tra 10 anni. No, è vero. Di vederci prima. Prima, dai, facciamo prima. Ciao. Grazie. Grazie.